Italia in controluce. E la seconda edizione di Italia in controluce è condotta e coordinata da Daniele Biacchessi. Le ricchezze delle cosche e gli affari dell''ndrangheta, le sue regole, ecco perché quella calabrese è diventata la più potente malavita organizzata mondiale, inserita nella blacklist dell'FBI. Oggi a Italia in controluce Raffaella Calanda parla degli affari dell''ndrangheta con un magistrato in prima linea nella lotta alle cosche. Il primo segnale è nel traffico. Ogni volta che all'improvviso cominciano a circolare tante auto nuove di zecca, tutte insieme e tutte di lusso, in città capiscono che anche l'ultimo grande affare di droga è andato a buon termine. E nella punta della Calabria, a Gioia Tauro, una delle principali piazze italiane in rapporto agli abitanti per vendita dei marchi più costosi. E questo perché anche ai giovani picciotti calabresi piacciono i motori e la bella vita. E anche qui finisce una piccolissima parte delle ricchezze dell''ndrangheta. 43 miliardi di euro ogni anno si stima arrivino nei forzieri delle cosche solo dal traffico di cocaina. L''ndrangheta in questo momento ha in mano il jolly, dice senza giri di parole Michele Prestipino, procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Ha una quantità di denaro liquido che può sommergere chiunque. L''ndrangheta intermedia i viaggi che portano ogni volta a bordo di sottomarini appositamente costruiti 10 tonnellate di cocaina dal Golfo del Messico in Africa e in Europa. Queste quantità di cocaina vengono pagate spesso in soldi contanti. In Colombia, cioè sul luogo di produzione, i soldi non li contano. I soldi li mettono su un camion e li pesano sulla pesa e sanno che ogni tot peso corrisponde tot banconote. Soldi letteralmente a tonnellate, reinvestiti poi nell'Interland milanese, nel cuore dell'Europa e ovunque ci sia fiuto di affari. I più tradizionali come l'edilizia o la ristorazione, i più nuovi come le energie alternative, oltre a quelli di sempre, a cominciare dalle grandi opere come la Salerno-Reggio Calabria o la Statale 106, in cui le cosche riescono ad infiltrarsi con i subappalti o comunque a guadagnarci con la loro percentuale, anche quando i cantieri sono di note multinazionali, indica Prestipino. Nell'ultimo anno e mezzo, si sono verificati un centinaio di danneggiamenti, atti intimidatori, aggressioni fisiche, che hanno avuto per oggetto mezzi e personale delle società che lavorano nei cantieri aperti su questi tratti. Tutti questi episodi sono state tutte regolarmente denunciate contro ignoti dai responsabili delle società, condotte e in pregilo. Intercettazioni ci hanno consegnato una realtà per cui su tutti i lavori eseguiti lungo la A3, le cosche dell''ndrangheta si sono divise la mitica tangente del 3% che ogni imprenditore che lavora paga alle cosche mafiose che governano il territorio dove vengono eseguiti i lavori attraverso il meccanismo della sovraffatturazione. Queste cose ce le hanno dette direttamente i protagonisti della vicenda nelle intercettazioni. Sono due alti dirigenti. Ingegnere, mi dia questo input e io sistemo tutte le carte. 41 milioni deve restare, quello lo vogliamo portare a qualche cosa in più? No, lo possiamo, guardi, 45 ce lo giochiamo, l'importo come sempre con quel discorso che ho fatto io, però spalle coperte e 3% di paravento. Su quei margini che escono dai costi di gara che sono stati forzati ho inserito una nuova riga, cioè ho messo un costo fittizio di stima di un 3% sui ricavi e l'ho chiamato costo sicurezza condotte in pregilo. I soldi sono la grande forza dell''ndrangheta insieme ai numeri del suo esercito. Solo a Reggio Calabria calcoliamo 140 ndrine, stimano i magistrati. In Calabria la densità criminale tra popolazione attiva e numero di affiliati organici alle cosche è il triplo di Sicilia e Campania, 13 volte quella della Puglia. E per gli inquirenti è questo che fa l''ndrangheta la più potente organizzazione mafiosa mondiale che a fronte delle altre fino ad ora è stata ben poco scambiata. rispetto al FITA, dicono. Italia in controluce. La seconda storia è ambientata invece in Sardegna. Come molti di voi sanno, Italia Controluce ha chiesto a scrittori, musicisti, uomini di donne di cultura, di spettacolo, di raccontare i luoghi italiani, le città, le regioni, i problemi, le eccellenze. Floriana Liuni ha incontrato lo scrittore Marcello Fois. Il tuo ultimo romanzo, Stirpe, è la saga della famiglia Chironi. Qual è il fascino e la forza di questa famiglia sarda? Che lotta contro la paura dell'estinzione, non lotta contro la morte, ma lotta contro la paura dell'estinzione, che è peggiore della morte. Era un periodo in cui nelle famiglie si moriva, i bambini morivano, la mortalità infantile era altissima. Il rapporto importante in Stirpe non è tanto quello con la morte, quanto con l'estinzione della famiglia, del nome. Sei uno dei pochi scrittori viventi a raccontare la Sardegna. Secondo te perché la Sardegna è difficile da raccontare in letteratura, in arte, in teatro, se lo è? Beh, è difficile da raccontare perché è penalizzata dal folklore di se stessa, dall'idea di se stessa a cui purtroppo i sardi per primi cominciano ad adattarsi. Qual è la differenza tra letteratura e folklore e tra folklore e memoria? Ma tra letteratura e folklore non lo so, però c'è una letteratura che insiste sul folklore e c'è invece una letteratura che insiste sulla memoria. Quindi c'è una letteratura che comodamente si appoggia sui luoghi comuni, arditi, banditeschi, sanguinari e quant'altro. C'è invece una letteratura che preferisce un approccio più complesso. Non esiste solo una Sardegna rurale, esiste anche una Sardegna urbana che non è stata abbastanza raccontata. Quindi lo scrittore che vuol parlare di Sardegna deve fare una specie di doppio salto mortale carpiato, cioè da una parte ripulire dai luoghi comuni, anche propri, anche interni, e dall'altra parte poi invece ricostruire una specie di memoria. Qual è il ruolo dei termini in lingua sarda non tradotta nei tuoi libri? Io non mi adatto all'idea che si debba usare la lingua in senso movimentista come un coltello alla gola, però mi piace l'idea che si tratti di una lingua in maniera paritaria, cioè l'italiano e il sardo hanno sempre abitato dentro di me e quindi mi sembrava illogico e non sincero evitarne una a dispetto dell'altra. I protagonisti di molti tuoi lavori sono spesso gente semplice che vive nell'Annuoro di fine Ottocento o di epoca fascista. Come mai scegli un contesto così antico e umile per parlare agli italiani contemporanei? Perché quello è il contesto che assomiglia di più al nostro contesto presente. Siamo dei poveri che credono di essere ricchi e siamo circondati da un fascismo diffuso di cui non abbiamo coscienza. La Sardegna è considerata un mondo a sé stante rispetto al resto d'Italia, all'Italia continentale. Allora, com'è essere sardi in Sardegna ed essere sardi nel resto d'Italia e nel resto del mondo? Qual è la ricchezza che la Sardegna comunica al mondo? È una ricchezza intanto di differenza e dovrebbe essere una ricchezza di tolleranza, perché i sardi hanno una storia alle spalle di aver subito grandi intolleranze. La Sardegna è una nazione, una piccola nazione che è stata sempre di altri, quindi noi credo che possiamo portare in giro la nostra differenza, che devo dire si smorza fuori dalla Sardegna. Fuori dalla Sardegna noi siamo tutti molto più solidali e molto più sardi, in Sardegna siamo molto più divisi, insomma meno solidali, e questo forse è una strana dislessia di cui dovremmo capire le ragioni. Italia in controluce. La terza storia viene da Milano ed è una storia di un comico che racconta la sua città, Marta Cagnola. È milanese, anzi milanesissimo, si definisce scherzosamente il Jerry Lewis dei Navigli. Ha vissuto la comicità meneghina fin da ragazzo e adesso porta in giro a teatro con Hocus Molto Pocus, ma anche in televisione i personaggi della sua infanzia nella sua città. La mia città. Beh, tutti i miei personaggi parlano un po' della mia infanzia, quindi della nostra Italia, della nostra Milano. Il Knight che col pianoforte a coda, il mago in smoking che parla, sembra un po' quei Knight che non ci sono più, la storia, il Williams. Dove adolescente andavo a cercare di vedere se c'erano dei prestigiatori per rubare qualche segreto, hai visto, è apparsa una colomba. Io mi divertivo così. Gli altri andavano in discoteca e andavo a vedere i prestigiatori, non so, una malattia, indubbiamente, però questa malattia mi ha regalato molto. E sono i personaggi che il pubblico ha amato, che sono profondamente meneghini. Se Omen è un personaggio milanese, la donna è la pila, è meglio la pila, almeno un lato positivo, incede come quei ganassoni, quei bauscia tipici milanesi che non, forse non ci sono neanche più. L'Italia che è una Milano che cambia così velocemente. Poi ricordi la mia infanzia, Silvan, Jacopo Ortis, che ricorda molto Carmelo Bene, anche Gassman, che io vedevo quando da ragazzino la TV in bianco e nero, vedevo il teatro Tenda e chissà che cosa sognavo. Mago Silvano da Milano. Signori e signori, simsalabim, no, siamo... No, lo so, tento che è meccanismo. Ma vai a giocare là che ci sono, ma... i tombini aperti, va, la sento Carola, no. Era il Cremona, ha fatto in tempo anche a frequentare il leggendario Teatro Derby. Sì, nell'84 ho fatto in tempo a essere programmato io, Claudio Bisio, Paolo Rossi, Francesco Salvi, Giorgio Faletti, tutta gente che poi dal cabaret è andato chi in un modo, chi in un altro, in altre direzioni. Ho fatto in tempo a respirare quel mondo. Io il Derby però avrebbe da lì a poco chiuso i battenti nell'86, quindi ho fatto in tempo a orbitare di notte, andavo di qua, andavo di là, lavoravo spesso in un'altra locale che si chiamava Cabianca. Forse preferì il Cabianca perché mi garantiva più scrittura. Quella milanese, grazie al cabaret, ma anche grazie alla televisione, è la comicità che segna il presente. Ma come mai? Questi comici in qualche modo hanno cresciuto delle generazioni. Oggi io mi ricordo Gino Bramieri. Stringimi in the night, balemi insieme, e se te pesti pe, balemi il gege. I ragazzi di oggi magari si ricorderanno, che ne so, di Rao Cremona, mi auguro, vedendo la Zeri, si ricordi di Rao Cremona quando faceva quel numero del mago pasticcione, a me piaceva tanto. Io mi impazzivo guardando Harry Salvador o McRooney e guardando loro ho riconsegnato la mia memoria a modo mio a chi magari, questi magari erano più sicuramente più bravi di me. Italia in controluce termina qui, l'archivio delle puntate su www.radio24.it. È possibile inviare le mail a controluce@radio24.it, oppure chi ha Facebook Radio 24 Italia in controluce, il gruppo con 1250 iscritti al momento.